ore 19:01, sta per iniziare sugli 87.9 di Radio Onda Rossa una nuova puntata di Likewise. La nostra sigla, Dump Ball, Moon Child Sunnily, un'oretta di musica insieme con Pinklo e Zona Sonica. E quindi bentrovate a tutti, questa è Radio Onda Rossa, questa è Likewise, come ogni martedì alle 19, oggi 28 novembre, non ho sbagliato nemmeno un numero, incredibile, bravissima, è stata una bella settimana, insomma, un bel weekend. Stato un bel weekend che ci ha restituito tanta forza, tanta energia, direi un corteo anche fuori un po' forse da quello che pensavamo, più grande di quanto potessimo mai pensare, diciamo. Speriamo di capitalizzare tutto questo, ma vedo che sono già belle agguerrite, perché ho letto, insomma, il comunicato post Assemblea Nazionale, rilanciano per il 16 dicembre, rilanciano per l'8 marzo, quindi direi che ci siamo. Ci siamo, era il momento, era ora. Partiamo subito con Likewise, questa è la scaletta numero 69, lei si chiama Glam Easy Fun. Just a billion brain balance of my boyfriend's earth. Glam, Easy Fun, ultimo singolo uscito per questa giovanissima e ultima in ordine di, diciamo, arrivo nella lista di artiste della nostra amata Secretly Canadian, che spessissimo, dalla quale spesso peschiamo cose nuove che ci interessano. Viene da South London, dal sud di Londra, e fa questo indie pop rock, a volte un po' più morbido, a volte un po' più spigoloso, come il pezzo che abbiamo scelto. Un bel songwriting e anche un bel modo di suonare la chitarra, che insomma, con qualche scadimento, secondo me, un po' troppo. Vabbè, ma c'ha 18 anni, dai. Le diamo il tempo, c'ha 18 anni, pochissime. Ha iniziato a pubblicare 2 anni fa, ha pubblicato 2 EP, e credo che appunto adesso con questa firma per l'etichetta Secretly Canadian forse uscirà il primo disco, quindi anche gli serve, anche queste giovani artiste, comunque serve quell'ingresso, insomma, un po' nel mondo della produzione dei dischi, dello studio, degli arrangiamenti, anche per crescere un po'. Speriamo che cresca, come dici tu, quindi ce lo auguriamo, che cresca e che si abbia pure una virata un po' più audace rispetto, diciamo, ad alcune delle cose che fa. Ah, dai, questa canzone abbiamo messo molto molto carina. Non sappiamo, io non so come si chiami esattamente, che si scrive G Gloom, quindi G Gloom, e quindi non so se è G Glum oppure Glum, però l'abbiamo detta così perché non ho trovato interviste, quindi. No, perché ancora è giovanissima, quindi non ci sono moltissime, come potete immaginare, moltissime notizie su di lei. E il pezzo che stiamo ascoltando di sottofondo è uno dei singoli che sta nell'EP di ultima pubblicazione, si chiama Wake Teeth, che è uscito a giugno del 2022, e lei dice che questa canzone è solo un suo sfogo su alcuni sentimenti che ha provato in una relazione complicata. Tanto per cambiare, io ancora quelli che hanno trovato una relazione semplice comunque non li ho conosciuti, fatemi riconoscere, o comunque non ci scrivono canzoni. Di rado. In cui sembra che non succeda nulla, nessuno faccia una mossa, ma tu ci pensi costantemente. Volevo catturare il caos emotivo del desiderio adolescenziale, intensità dei sentimenti quando si sta ancora imparando come funzionano le relazioni. Vabbè. Il contenuto c'è. C'è. Le diamo dai, fiducia. Dai, le diamo fiducia. Vediamo che succede nel 2024. Prossimo pezzo, ATM. Oh. questo lavoro interessantissimo, ATM si chiama il pezzo, tratto dalle Slice, uscito per la Speedy Wonderground il 24 novembre, quindi insomma qualche giorno fa. Devo dire che questo duo, che appunto ha base a Londra, composto dal sassofono baritono di Joseph Henwood e dalla fantastica batteria di Tash Carey, devo dire che è veramente trascinante, è appunto un duo che sembrano sette, in cui appunto jazz e rock, diciamo l'improvvisazione jazz rock più estrema, anche più libera fondamentalmente, si incontra per questa bella produzione venuta fuori, insomma costruita durante, anche qui durante il lockdown, quindi insomma anche quando le capate sui muri, esatto. Che è stato quello, tu le identifichi con capate sui muri, ecco. No, potrebbe essere, no, non è vero, è un lavoro molto interessante. Loro hanno detto che poi dopo, insomma, che è finito il lockdown, hanno iniziato a suonare anche insieme live tutti questi pezzi, queste improvvisazioni, e alla fine quando si sono ritrovati a entrare in studio, Tasha stessa ha dichiarato: avevamo tantissimi brani e abbiamo scelto i quattro più diversi tra di loro per far, insomma, per mostrare tutti gli stili che ci piace suonare, quindi hanno messo le quattro cose più diverse di tutti i pezzi che avevano. Per far vedere che insomma comunque appunto il loro grado di improvvisazione è talmente vasto e vario che le sonorità che vengono fuori poi sono vaste e varie e quindi non facilmente anche etichettabili. Vi consigliamo, se vi piace la parte video che spesso accompagna i pezzi, insomma la musica, il video creato da un artista slovacca che si chiama Ibenija Vinokurova, scusate la mia pronuncia piuttosto approssimativa, che accompagna appunto il singolo Slice, il pezzo Slice che dà il titolo all'EP, che è molto molto carino, molto particolare. Prossimo pezzo, lei si chiama, questa è la Radio Rossa, noi siamo Likewise. Dobbiamo fare qualcosa, facciamolo subito questo che invito. Dobbiamo... Ah, ricordi, è vero, vogliamo fare un invito. Tanto ricordiamo che insomma la settimana prossima, vero? No. Sì. Le date. La settimana prossima. Sì. La settimana prossima. No, è che dura un po' questo festeggiamento, quindi inizia la settimana prossima. Come tutti gli anniversari devono essere. È gli giusto. Anniversari non cadono solo in un giorno, in realtà sono, perché poi le cose non succedono mai in un giorno, no? Sono sempre in vari giorni, quindi insomma è giusto celebrare gli anniversari di occupazioni insomma in un po' più di giorni, così si ha anche modo di fare tante cose. No, così anche tutte riescono a passare a partecipare. Lo sappiamo che Roma è una città che fagocita abbastanza, esatto. Sia da un punto di vista personale che poi degli eventi politici e non, insomma, quindi è abbastanza impegnativa l'agenda di tutte e tutti noi, ma le cagne festeggiano le nostre amate cagne sciolte, festeggiano i 10 anni di occupazione, quindi perché non venire in radio ospiti da Likewise e proporre le 10 canzoni, una per ogni anno di questi 10 anni? Vi ospitiamo. Mo l'abbiamo fregata, non ci posso. Mo l'abbiamo fregata, l'abbiamo detta a tutta Italia, a tutto il mondo, tutti quelli che ci ascoltano. Salutiamo chi ci ascolta a Terni sul DAB. Ciao Terni, e chi ci ascolta in giro per il mondo su ondarossa.info in streaming. Cagne sciolte, quindi vi abbiamo ufficialmente invitato la prossima settimana qui a Likewise a farci la vostra playlist. Dai, possiamo anche farlo diciamo dopo il compleanno, che immagino che siano super incasinate, però. Yeah, se ce le avete pronte, perché sappiamo che ascoltate tantissima musica, quindi se ce le avete già in mente 10 canzoni, mettiamo su una puntata veloce veloce. Caroline Rose, Miami. Never knew my worth, honestly, neither did I. You've gotta get through this life somehow. You've gotta get through this life somehow. You've gotta get through this life somehow. Karen Rose, Miami, tratto dall'album The Art of Forgetting, di cui già avevamo presentato un singolo che preannunciava l'album tempo fa, e come immaginavamo, come ci aspettavamo, è davvero un album bello bello bello, perché tra l'altro ci siamo un po' perse, perché poi l'album in realtà era uscito a marzo di quest'anno, esatto. Noi avevamo messo il singolo penso forse anche o intorno a gennaio o forse addirittura alla fine dell'anno precedente, che prima che uscisse. E quindi insomma abbiamo voluto recuperarlo e vogliamo rinfilarvelo, nel senso che sapete che poi a fine anno ci sono anche un po', ci si riguarda un po' gli album che sono passati, quelli troppi che ci sono rimasti più impressi e quelli che poi magari per qualche ragione non abbiamo ascoltato abbastanza, e questo sicuramente è uno di quelli. Caroline Rose è un'artista che amiamo molto, likewise, siamo particolarmente affezionati a lei. Io in particolare credo che lei sia molto sottovalutata come artista, come chitarrista, è molto eclettica da un punto di vista musicale, ha una base country folk, ma diciamo la sua sincerità emotiva di scrittura e la sua cuiraggine fantastica la portano ad aprirsi a tutte le influenze musicali e spesso anche super, super rock. Vi consiglio di guardare, prima di lasciare Clo raccontarvi sicuramente qualcosa di questo album, due cose. Una è di andarvi a vedere il suo live alla radio KEXP, che spesso vi raccontiamo, che spesso vi suggeriamo di andare a guardare, perché è un album è un live veramente molto molto bello. E poi una piccola curiosità nell'album è che ogni tanto ci sono dei vocali, cioè dei messaggi registrati in segreteria dalla nonna. Sì, dalla nonna, cioè sono le telefonate in realtà, sì, che la nonna faceva a lei, e nonna che stava iniziando a perdere la memoria, e quindi faceva delle telefonate. Aveva pure 102 anni, però non è che faceva queste telefonate che nella nostra essere molto logici non avevano logicità. Ma infatti poi tutto questo disco si chiama L'arte del dimenticare, esatto, non a caso, perché appunto è ispirato a queste telefonate con la nonna, e inserti di queste telefonate sono all'interno del disco. Sì, più che telefonate in realtà sono i messaggi registrati, perché è la nonna che le lascia messaggi, dice ah ciao Caroline, sì, nella pensavo, volevo solo salutarti, dirti che ti penso, che ti voglio bene, che insomma ci vediamo presto, cose così, che è un po', sembra un po' un modo della nonna di non dimenticare, no? Cioè di provare a non dimenticare una persona della propria vita quando si sente che la memoria magari fa sta scappando. Lei ha dichiarato che tutto quello che c'è in questo disco è esattamente quello che lei avrebbe detto al suo terapeuta, alla sua terapeuta, tra l'altro a cui è dedicata pure una canzone, se non ho capito male, che si chiama Jill, e quindi più schietto e sincero e onesto di così è abbastanza difficile. Ha pubblicato nella sua carriera 5 album, quindi potete andare a recuperare non solo quest'ultimo lavoro che è uscito a marzo, ma anche i precedenti, e anzi comunque parliamo già che ha iniziato a produrre nel 2012 con American Religious, e poi ha pubblicato l'ultimo disco, prima di questo era uscito nel 2020, si chiamava Superstar, quindi andateveli a cercare se vi piace e recuperate, perché poi sono dischi anche un po' vari, come diceva Dona, ha iniziato col folk country, poi si è un po' spostata su questo indie pop rock, mantenendo comunque queste sonorità folk della chitarra, quindi comunque una produzione abbastanza interessante, e poi lei è un taglio. Quarto pezzo di questa scaletta, sono le 19:27, quasi 28. Sì, siamo già ho due orologi con leggermente. No, quello della regia è ben noto che è un minuto indietro, ma. Quindi 19:28. 19:28 qui a Onda Rossa, questa è Likewise. Il quarto pezzo di oggi è Problem Patterns, Let's Go 3000. Finish us or point her, then attack us in the streets. meno male che c'è il punk che ci ricorda le cose, ce le urla. Call me a dyke. I'll wear it with honor, appunto, il testo molto bello, interessante, giovane queer band di Belfast. Il pezzo che abbiamo ascoltato si chiama Lesbo 3000, è tratto dal album di esordio uscito lo scorso 27 ottobre per la Arco Pop, che si chiama Blouse Club. Che dobbiamo dire? Meno male che c'è il punk. Meno male che c'è il punk e dice le cose come meno stanno. Meno male che c'è e il punk queer femminista e direi. Trans femminista, assolutamente. Tra l'altro è carina questa cosa perché loro, per esempio, dicono che non hanno nessuno di loro a ruoli, quindi ruotano anche con gli strumenti, cercano insomma di portare questa idea che abbiamo di inclusività sì. E anche di evitare di creare leader o comunque di creare processi e procedimenti per cui poi si creano dei vertici. Quindi loro ruotano, non hanno una voce unica, cambiano spesso, cambiano strumenti, quindi non hanno una provano person, nelle pratiche provano proprio a fare una band cercando di scardinare quegli elementi che poi inevitabilmente alle volte vengono fuori, lo sappiamo, no? Chi è il vocalist piuttosto che il chitarrista alle volte prende il sopravvento magari su certe band. E poi appunto essere la front persona in genere, diciamo, ti dà una visibilità o comunque in qualche modo lega quello che canti, anche se magari non l'hai scritto tu, alla tua fisicità. E invece non è così in questo caso, come dicevi, appunto scambiano ruoli, strumenti e anche insomma cantano tutto. E, che dire, non vediamo l'ora di vederle dal vivo, sinceramente, perché appunto come avete potuto ascoltare da questo diciamo da questo pezzo, tantissime influenze che ci piacciono molto, insomma, che fanno parte della storia della musica delle donne, delle femministe. A loro, diciamo, nel loro passato un EP che si chiamava Good For You Aren't You Great, che è uscito nel 2019, e tutti i testi, da che ne so, il pezzo che si chiama Lettera di dimissioni, ma ce n'è uno, Turf Out, esatto, quello che citavo io, Lettera di dimissioni, dice la vita non è disco perfetto da corteo, questo non sì, potresti mettere proprio tutto per intero da corteo, quindi vi invitiamo a impararvele però queste canzoni, perché altrimenti insomma non si può, al corteo, esatto. Bisogna cantare con e pogare. Esatto. E pogare. Pezzo numero 5 della scaletta di stasera, state ascoltando la Onda Rossa, questa è Likewise, lei si chiama Rosa Buzzi e il pezzo si chiama Cesar. E questa è la Caesar di Rosa Buzzi, tratto dall'album Shoulder Knee, uscito lo scorso 10 novembre. È un questa EP. È proprio una tua prediletta. Ce l'hai sì, proprio lanciata. Molto bella, devo molto dire. Bella. Io avrei scelto questo pezzo, Shoulder Knee, però siccome... Vabbè, tanto noi pezzi non siamo mai d'accordo, quindi siccome l'avevi proprio coccolata, ho detto no, non posso farlo, non posso farglielo. Ma secondo me sono tutti belli i pezzi di questo EP, che in realtà ha solo 4 tracce, ma la bellissima notizia è che sta per uscire il disco di debutto, che uscirà il 15 dicembre, per la Polymon, sempre, Fruitful Days. Quindi avremo modo di poterla ascoltare ancora di più e ancora meglio. A me mi ha fatto venire voglia in realtà il P di ascoltare un lavoro più diciamo completo. E il suo nome è un omaggio alla nonna ungherese, il suo diciamo alter ego quindi musicale, che ha una linea matrilineare. Ha una voce, come potete sentire, molto calda, secondo me, una chitarra anche pure con questo suono molto, molto caldo, che sono quei dischi che a me piacciono, soprattutto in questo periodo dell'anno. Continuo a dire che ti siedi a casa, la tisana, sì, il disco che ti coccola, questa voce, insomma, che ti fa compagnia, sembra un po' a casa tua, no? Sta suonando per te. Sta suonando per te. E il trio, diciamo, la band con cui si accompagna, tra l'altro è composta da una bassista, niente male, e un batterista, quindi insomma è una formazione minimal, un po' come appunto sì, è la composizione dell'album. Brava chitarrista, veramente, molto interessante. Quindi sì, abbiamo delle aspettative e abbiamo, insomma, fra pochissimo tempo potremo controllare che cosa e chissà se poi finirà nei best of, che non so se quest'anno faremo prima di dicembre o a gennaio, non so cosa dice qui la social, non abbiamo deciso, non abbiamo ancora non pensato, non abbiamo deciso nulla. Io devo, come sai, io devo sempre togliere, cioè nel senso non è che devo pensare 10 più belle, no, perché voi dovete sapere che lei è veramente nerd, quindi in realtà fa delle cose molto intelligenti, che a un certo punto se li mette tutti da parte, quelli che comunque già sono io no, devo, quindi c'ho un elenco di album, tra l'altro quest'anno a Likewise ne abbiamo già, penso, ascoltato 200 nuove uscite, comunque più o meno i numeri dell'anno scorso, quindi sono tantissime artiste, mo va ripescale tutte. Non sono l'unica nerd, però insomma questa no, è una immagino. Cosa che fanno in tante e per fortuna, perché così appunto spesso certo, insomma, no, poi esatto. Magari il tempo ci ruba. Anch'io avevo detto spazi. Che lo volevo fare e poi non l'ho fatto. Vedi, te lo dovevo ricordare. Prossima artista, lei si chiama Shida Shahabi Remain. questo è il viaggio che ci ha regalato Sheba Shahabi con il pezzo Remain, tratto dall'album Living Circle, che abbiamo colpevolmente ci siamo dimenticate in realtà di presenziarvelo. Era uscito a giugno di quest'anno, quindi insomma lo abbiamo recuperato grazie alle connessioni tra donne che tanto ci piace raccontare, perché sul suo, insomma, su uno dei suoi social era super contenta di annunciare che avrebbe aperto il prossimo concerto ad agosto, c'è tempo, dell'anno prossimo, di PJ Harvey. Vabbè, anch'io sarei super contenta, esatto. Cioè, se aprissi, quindi, per PJ Harvey, esatto. E quindi insomma ho detto vedi, noi non ce la siamo scordata lei, quindi andiamo a riascoltarla, e quindi l'abbiamo riascoltata, ci è molto piaciuta. Questa è colpa tua, del punk e dello shoegaze, che poi ci perdiamo le compositrici pianiste, no, di Stoccolma. Infatti non ce le siamo persi, non a caso ve la stiamo facendo ascoltare. Lei è una pianista, una compositrice, come dicevo, di Stoccolma, e è nata da genitori iraniani fuggiti dalla guerra Iran-Iraq. Ha studiato pianoforte dall'età di 9 anni e ha iniziato a scrivere melodie sullo strumento appena riuscita, insomma, a comporre con le due mani, quindi da un bel po'. Tra le sue fonti di ispirazione, come si può anche ben capire dalla musica, c'è il cinema, comunque ci sono i film. Tra l'altro lei infatti ha fatto diverse collaborazioni per colonne sonore, quindi ha scritto delle colonne sonore sia per cortometraggi che per film, che hanno anche riscosso abbastanza successo, forse anche qualche premio. Sì, sì. E nel 2018 ha firmato per il side project della Fat Cat Records, che si chiama, adesso lo possiamo dire, 1301, no, 130701, perché allora si legge così, e dove ha iniziato a pubblicare dischi, insomma, lavori suoi, è il suo secondo disco in realtà, quindi non ci sono tantissimi lavori suoi. Tra l'altro è interessante che la 130701, che è una costola della Fat Cat Records, è una, diciamo, una piccola etichetta che si occupa di post classical music, quindi insomma di tutto quello che è un po' l'esplorazione di una impostazione di musica classic, ma che spazia, diciamo, su tutti i generi, quindi anche con quello che fa lei. Devo dire che questo album, rispetto alle sue cose precedenti, appunto, è forse più aperto, più ampio, anche meno incasellato nei tempi, diciamo, di quelle che possono essere le composizioni che cerchi di rendere ascoltabili. Ci sono pezzi più lunghi, quello che abbiamo ascoltato era 6 minuti e 50, quindi anche una certa libertà che insomma non guasta. Secondo me la combo dell'EP di prima e il disco suo, perfetto. Fai 2 ore di musica, veramente ti rimetti al mondo. 19:48, noi, come potete immaginare, se ci chiamasse al telefono ce lo potreste dire, siamo in ritardo, esattamente. Grazie all'ascoltatrice che ci ha voluto chiamare per dirci che insomma è contenta di ascoltare Likewise, noi siamo felici che tu ci sia, e insomma se volete farlo 0649 1750, o comunque questo numero sempre sempre per comunicare con la radio. Prossimo pezzo, Sister Ray, Visions. Cares now, we are moving out, selling the coast with the money, then I'll split down. You can take the Christmas tree, all I want is the joint you owe me in the bed sheet. Comfortably, yeah. sì, abbiamo fatto un blocco morbido questa sera, ce ne stavamo accorgendo adesso. È venuto così. Sister Ray, Visions, cantante, songwriter, Ella Coins. Abbassa la chitarra, la sua chitarra, appunto con questo singolo Visions. Stavamo un po' facendo il conto delle cose che ha fatto, è uscito prima, è uscito dopo, insomma, così per aggiustare i nostri appunti. Cantautrice interessante, insomma, questa idea anche lei molto cinematica, devo dire, probabilmente anche questo che ci ha un po' avvicinate nella costituzione della, nella costruzione della playlist. Sì, e anche questa, in realtà c'è tutto un discorso sul suonare insieme agli altri. Il suo disco di debutto, che si chiama Communion, non a caso è stato suonato tutti insieme sul palco mentre le canzoni andavano, cioè senza troppa costruzione. E lei è, in realtà il suo background musicale è così comunitario perché è una Métis, quindi una del popolo indigeno del Canada occidentale, e in realtà lei racconta che questa vicinanza alla musica probabilmente è proprio, viene proprio da lì. E lei dice che soprattutto crede che la sua generazione, le sue, insomma, le tragedie dell'essere indigeni in Canada siano state davvero rivelate proprio, diciamo, in questo tempo qui, quindi nella sua generazione. E adesso si sa, e lo sappiamo perché le notizie sono arrivate anche a noi, che migliaia di bambini sono stati sepolti nelle scuole residenziali, ma la musica era un pezzo di gioia permanente, dice, della comunità, ed è stata mantenuta anche in quel momento molto tragico della comunità. E per lei, dice, per me è un simbolo della sopravvivenza del mio popolo, anche se storicamente non è una cosa che è stata scritta, ma è stata tramandata appunto attraverso la resilienza delle persone stesse. Quindi questa idea di suonare insieme, insomma, le viene anche, ci tiene anche a raccontare che viene da lì. Mi sono proprio incantata, è tutto molto bello, ma noi siamo in ritardo. Prossimo pezzo, Pink Suits, Refuse the Rules. Che mai, loro sono Pink Suits. Si pensava che non ce l'avrebbero fatta, nel senso che io pensavo che non ce l'avrebbero fatta a fare qualche altra cosa dopo Political Child, uscito nel 2021. Invece esce questo singolo proprio qualche giorno fa, il 23 novembre scorso, che si chiama appunto Refuse the Rules, e preannuncia il prossimo album in uscita ad aprile. Non-binary queer feminist punk rock and rage duo dalle parti di Margate, Inghilterra, si sono formate qualche anno fa e hanno, diciamo, sulla loro pagina web ben chiaro quello che vogliono fare con la loro musica, quello che vogliono dire con la loro musica, e soprattutto hanno anche una bellissima, cioè ci sono delle righe molto belle dedicate a chi ha dei posti dove si fa musica, invitando queste persone a appunto a chi ha un locale, chi ha insomma un posto dove si suona, a diciamo a cercare di essere più inclusivi, più a diversificare le line up che costruiscono, quindi più donne, più musiciste di LGBTQIA+, più gente, più differenziazione anche a livello razziale. Quindi insomma loro dicono: quando fate una line up bianca invitate noi, ma imparate a fare line up che siano più varie rispetto a quello che di solito si vede in giro. Quindi insomma è una band che ha tante cose da dire e ci piace molto. E che sicuramente riascolteremo nel nuovo anno. Sono le 19.57, questa è Radio Onda Rossa sugli 87.9 in modulazione di frequenza. Stiamo per arrivare verso la chiusura della nostra scaletta, perché dopo di noi ci sono Note Cose e Città, poi c'è Semilla, poi Marfire. Rimanete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Che abbiamo deciso? Ma facciamo questo tributo. Facciamo questo tributo che tra l'altro in questa puntata ci sta anche, se vogliamo, perché lei comunque è un'icona gigantesca, e non solo della musica folk, ma anche appunto poi delle sue esplorazioni jazz, e ha portato questo tipo di sonorità su un piano molto alto, secondo me. Johnny Mitchell, Don't Interrupt the Sorrow. Liberation doll, and he chains me with that serpent to that Ethiopian wall. And I'm a rising queen of queens. Wash my guilt of Eden, wash and balance me. And I'm a rising uprising in me tonight. She's a vengeful little goddess with an ancient crown to fight. Truth goes up in vapors, the steeples lean. Winds of change, patriarchs, snug in your Bible belt dreams. God goes up the chimney like childhood Santa Claus. The good slaves love the good book. A rebel loves a cause. I'm leaving on the 115. Questa era la meravigliosa voce, la meravigliosa musica e la scrittura di Joni Mitchell, Don't Interrupt the Sorrow, tratto dall'album uscito nel 1975 per la Asylum Records, che si chiamava The Hissing of Summer Loans. Perché facciamo ascoltare questo pezzo? Allora, innanzitutto perché è bellissimo, ci potrebbe stare sempre. Ci potrebbe stare sempre. Però in realtà c'è un'occasione, è chiaro. C'è un'occasione, cioè forse non lo sapete. Prima ha fatto il compleanno all'inizio di questo mese, ha fatto 80 anni e quindi auguri Johnny. Auguri Johnny. E poi diciamo l'occasione è la terza uscita, l'uscita del terzo volume di questo progetto che è ancora in corso, che non si è ancora concluso e che sta curando lei stessa diciamo materiale inedito, registrazioni live, insomma tutto quanto non è finito nei dischi. Che sono usciti tanti dischi che sono usciti nella sua lunga carriera e che praticamente sembra essere, noi non l'abbiamo ancora ascoltato, ma sembra essere veramente un gioiello. Si apre questo disco, cioè il volume che si chiama Joni Mitchell Archives volume 3, si apre con un concerto alla Carnegie Hall del 1971, fatto diciamo qualche mese dopo l'uscita di Blue, quindi insomma in quel periodo straordinario, e poi ci raccontano alcune recensioni di chi ha ascoltato il disco che c'è veramente di tutto e si riesce a fare una chiara idea di come i pezzi, di come la musica sempre in evoluzione di questa artista straordinaria si evolveva, quindi si costruiva, quindi attraverso, ci sono delle take di, che ne so, le prime take di musicisti o musiciste che si diciamo inserivano in una parte dei brani, quindi insomma c'è veramente la possibilità di ascoltare non solo delle cose bellissime ma anche di capire come viene fuori il suo lavoro e la sua arte. E se per caso qualcuna di voi che è molto giovane non la conoscesse o non l'avesse incrociata nella sua insomma ricerca musicale, penso che la possiamo assolutamente tutto, cioè spegnete subito, andate, ha scritto subito. Allora Joni Mitchell ha scritto ha pubblicato il suo primo disco nel 1968, da allora ne ha pubblicati qualcosa come più di una ventina, l'ultimo tra l'altro è uscito da non moltissimo, forse addirittura quest'anno stesso, che è una live performance a Newport, immagino al festival. Io devo dire che i suoi dischi ce li ho tutti a casa, che non c'è un disco che è uguale all'altro, che mentre la sentivamo prima adesso in cuffia qui a Radio Onda Rossa dentro Likewise, pensavo che è ancora, è come se l'avesse scritto oggi questo disco, che era del 75, comunque una raffinatezza, un cantautorato così puntuale, attento, ricercato, elaborato, un pensare a quello che si dice, veramente. Cioè, vabbè, Joni Mitchell, dai, sono parole, pure troppe parole abbiamo detto. Abbiamo detto anche troppe parole e soprattutto una delle cose che mi piace di più di Joni Mitchell, oltre alle cose che hai detto tu, è il fatto che la parte live della sua carriera artistica, quindi le registrazioni live dei suoi concerti, sono una parte fondamentale della sua produzione musicale, quindi magari devo dire non costa tantissimo come in genere costano questi cofanetti eccetera eccetera, ed è bellissimo che sia lei a curarlo insomma finché è in vita e a scegliere le cose che vuole raccontare. Mettetelo nella wishlist per le amiche, gli amici, le compagne, i compagni, che magari potrebbe essere una di quelle cose che a Natale potrebbe funzionare. Ecco, vedi, l'hai trovato, c'è regalo per me. Sono le 20:06, dall'altra parte del vetro ci sono note cose e città, quindi noi lasciamo con gioia il microfono a loro, vi lasciamo in buonissime orecchie e mani, con sicuramente una scaletta super interessante. Noi ci risentiamo martedì prossimo, vi ricordo che è arrivata Scarceranda, andate sul sito, cercate come prenderla, tenete d'occhio il sito perché ci sono anche le presentazioni e quindi è facile giro per Roma e non solo, quindi insomma sì, andate a controllare perché ci saranno tanti appuntamenti dove potete incontrarci, ascoltare la presentazione e comprare Scarceranda. Ci sentiamo martedì prossimo, ciao a tutti, ciao.